Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Un diluvio a Roma nel caos, una donna morta nella sua auto sommersa dall'acqua, disagio in tutta Italia. Terzo incidente del 2008, un operaio muore all'Ilva di Taranto. E sempre all'Ilva, ma di Genova, indagine su 5 dirigenti per un traffico di rifiuti illeciti. Cala il debito, dice Banca Italia, dalla BCE preoccupazione di incertezza sulla situazione economica. Irresponsabile, così Veltroni replica al Presidente del Consiglio dopo la chiusura del Premier sulle riforme. Clima, siamo pronti al veto, ha appena detto Silvio Berlusconi nel giorno della Consiglio europeo. Una buona giornata da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. Eccezionale ondata di maltempo in tutta Italia ed è con questo che apriamo. Particolarmente colpita Roma e le zone limitrofe, dove dalla scorsa notte si è abbattuto un violento nubifragio e purtroppo c'è da segnalare anche una vittima. In prefettura è stato creato un tavolo di coordinamento permanente su questa emergenza. Ed è con la prefettura che ci colleghiamo. Francesca Malaguti, buongiorno. Buongiorno, mi trovo proprio davanti al Palazzo della Prefettura, a pochi passi da Piazza Venezia. L'emergenza causata dal maltempo qui si sta traducendo soprattutto in grandi rallentamenti dei mezzi pubblici che passano a lunghi intervalli. I disagi più grandi sono in periferia e nelle zone di accesso alla città. Molte le gallerie, le aree e le stazioni allagate, come quella Tiburtina. A Monterotondo, in provincia, una donna è morta, rimasta intrappolata nella sua auto in galleria, sommersa da 4 metri d'acqua. Il prefetto di Roma ha aperto un tavolo permanente per far fronte all'emergenza e il Campidoglio ha deciso di aggiungere 1000 vigili ai normali turni sulle strade. Le autorità invitano a usare il meno possibile le auto, ma qui in centro, più che molte macchine, ci sono molte persone in attesa alle fermate dei mezzi. Sentiamo che cosa ci hanno detto. La metro ci ha messo più di mezz'ora per arrivare da casa mia, San Giovanni. Stanotte è un disastro. L'autobus che ha impiegato molto tempo ad arrivare, l'autista ha detto che era per problemi di pioggia e di passaggio proprio nelle strade. E alcune strade erano allagate e aveva difficoltà a passare e quindi traffico ovviamente più intenso. C'erano allagamenti, va il muro torto giù al Flaminio e sulla Tuscolana. E che oggi piovesse, si sapeva. Che ci sarebbero stati problemi, si sapeva. Allora i dirigenti sono tenuti a stare attenti in modo che non sorgano questi problemi. Nel frattempo la pioggia non si ferma da questa notte. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie Francesca Malaguti, ora ci spostiamo a Venezia, nuovamente alle prese con l'acqua alta. Silva Menetto, qual è il livello massimo raggiunto questa mattina? Allora, questa mattina fortunatamente si è toccato il metro e 5 centimetri sul medio mare, che vuol dire che è stato allagato il 15% della superficie della città. Le condizioni meteo sono lievemente migliorate per quanto riguarda le maree, non sono affatto migliorate invece per quanto riguarda la pioggia, perché anche qui sta letteralmente diluviando da questa mattina. Le sirene sono suonate comunque alle 6 del mattino e la previsione più allarmante invece è per questa sera, quando tornerà il fenomeno del vento di scirocco dall'Adriatico e quindi si parla di un'acqua alta di 130 centimetri sul medio mare, vuol dire che il 60% della città questa volta andrà sotto. Stesse condizioni anche domani mattina. E è per questo che, nonostante lo sciopero generale, la CGIL ha deciso che per quanto riguarda i servizi di navigazione domani saranno svolti regolarmente qui a Venezia, proprio per evitare maggiori disagi. È tutto. Grazie Silva Menetto. Anche il resto d'Italia è colpito dal maltempo, soprattutto il centro-sud, disagio in Puglia e in Sicilia per il forte vento di scirocco. A Matera, alberi spezzati e danni per il violento nubifragio della notte, ancora sospesi i collegamenti per le isole nel Golfo di Napoli e, Alessandra, ci sono aggiornamenti anche dalla Protezione Civile. Sì, perché poco fa ha parlato il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ha detto la situazione è seria ma sotto controllo. Al momento quello che preoccupa di più, secondo Bertolaso, sono i grandi fiumi del centro Italia, come il Tevere, l'Aniene e l'Arno. Ricordiamo che a Firenze l'Arno è in piena, ma si tratta di una piena controllata. Ma cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore e i prossimi giorni? Raffaele Salerno, meteorologo del centro Epson, buongiorno, che cosa ci può dire? Anzitutto buongiorno. Buongiorno, beh, non ci sono buone notizie in realtà per le prossime ore, soprattutto perché continua il maltempo anche nel pomeriggio e nella sera su molte regioni. Ci saranno ancora rovesce temporali sulle regioni del centro-sud, pioggia al nord e nevicate sulle Alpi. Poi, per quanto invece riguarda la nottata, abbiamo un alleggerimento della situazione sulle regioni tirreniche, dove i fenomeni si faranno un po' più rari, mentre insisteranno ancora delle piogge, soprattutto nord-est Lombardia, e ancora dei rovesci e dei temporali sul sud Italia. Questo nella notte, per poi domani ritrovare ancora del maltempo, soprattutto sul Triveneto, sulle regioni adriatiche e ancora al sud. Avevamo una domanda, non vorremmo trascinarla in una discussione sulla quale i climatologi stanno dibattendo da anni, ma stiamo assistendo ad una serie di fenomeni in qualche modo estremi. Secondo lei a cosa è dovuto? Sicuramente nell'atmosfera c'è maggiore energia a disposizione. Questa maggiore energia deriva dal fatto che comunque c'è un riscaldamento dell'atmosfera che mette proprio a disposizione maggiore energia. I fenomeni estremi si alimentano con questa maggiore energia disponibile. Questo è un discorso chiaramente più generale. Adesso non dobbiamo certamente fare necessariamente il collegamento fra quello che sta avvenendo in queste ore, in questi giorni, con un discorso più generale, però è anche vero che effettivamente il riscaldamento procura questa energia all'intero sistema, e questa maggiore energia tende a estremizzare i fenomeni che poi avvengono sulle diverse aree del mondo. Insomma, ci dobbiamo sempre di più abituare a questi fenomeni meteorologici estremi. Grazie a Raffaele Salerno, meteorologo del Centro Epson. Il dibattito sulla giustizia e sul cambiamento della Costituzione. Impossibile dialogare con questa sinistra, noi abbiamo la maggioranza per cambiare la Costituzione, ha detto ieri Silvio Berlusconi, il Presidente del Consiglio. Questa mattina la replica di Veltroni, dice: il comportamento del Presidente del Consiglio è del tutto irresponsabile. Stefano Folli, buongiorno. Buongiorno. Editorialista, commentatore del Sole 24 Ore, insomma non è la prima volta che Berlusconi aggredisce in questo modo l'opposizione e dice vado avanti da solo, ma in questo caso cosa c'è dietro? Ma io penso che ci sia soprattutto la solita volontà di tenere compatta la propria maggioranza e dimostrare che il leader è lui e soltanto lui. Berlusconi non ama che ci siano operazioni fatte da altri che lui non controlla. Nei giorni scorsi Casini aveva aperto sui problemi della maggioranza, aveva parlato di un dialogo possibile, ma Berlusconi si è subito insospettito, no? Pensa che questo possa poi determinare una serie di problemi politici dentro la maggioranza. Lui preferisce evitare qualsiasi dialogo e tenere ben compatta la sua maggioranza, quindi annuncia che si faranno le riforme sulla base dei numeri parlamentari che il centrodestra possiede. Ma poi nei fatti io credo che su queste premesse, su queste basi, tra l'altro il Presidente della Repubblica ha più volte consigliato un altro sistema, cioè ha consigliato invece il dialogo e le riforme condivise, lo ha detto anche il Presidente della Camera Fini, che pure appartiene al centrodestra. Su questa base di confronto duro alla fine naturalmente non si farà nulla, o quasi, io temo. Insomma, alla fine Stefano, siamo sempre lì, insomma, si discute tanto ma si fa poco. Stefano, su questo pesa naturalmente anche l'estrema debolezza dell'opposizione. Certo. L'opposizione non è in grado di andare davvero a un dialogo con la maggioranza. È vero che Violante, D'Alema hanno proposto proprio sulla giustizia un possibile tavolo di negoziato, ma poi abbiamo visto che in realtà non si può. Casini fa il suo gioco, Di Pietro tira dall'altra parte. Insomma, ci sono tutte le premesse per l'ennesimo showdown che poi non conduce a nulla. D'altra parte Berlusconi su questo è abile e è quello che sa giocare meglio le sue carte quando c'è un confronto che assume anche un'impronta di tipo elettorale. Si voterà in Abruzzo nei prossimi giorni, ma in Italia c'è sempre un'elezione prossima avventura che costituisce l'alibi per non fare le riforme e per fare invece la faccia feroce che serve per tenere insieme questo nostro bipolarismo, che certamente è stato importante, un passo avanti, però purtroppo è un bipolarismo che poi non produce quel rinnovamento delle istituzioni di cui ci sarebbe bisogno. Grazie a Stefano. Grazie Stefano Foli. Tra l'altro parleremo più tardi delle elezioni in Abruzzo che si terranno domenica e lunedì. Adesso continuiamo a parlare di politica in senso lato, sì, Simone. Un super classico, la politica italiana e la televisione, i suoi rapporti con la RAI. Esponenti del Popolo della Libertà l'hanno definita Repubblica separata di RAI 3 e dicono nel suo Che tempo che fa Fabio Fazio non invita persone che appartengono al centrodestra. Il presidente della RAI Petruccioli risponde: Fazio non si tocca perché è il David Letterman italiano. Ma cosa significa essere il David Letterman? È buono, gentile, sorridente. Fabio Fazio è un amatissimo conduttore che si candida a essere il David Letterman italiano. Da ieri anche con la benedizione del presidente RAI Claudio Petruccioli. Ma chi è David Letterman? Davvero assomiglia a Fabio Fazio? E perché tutti i conduttori aspirano a essere la sua versione nostrana? Please welcome the lovely, the fetching Nicole Kidman. Ladies and gentlemen, here's the lovely Paris Hilton. Paris. Ladies and gentlemen, here's the lovely Demi Moore. Here's the very talented Johnny Depp, everybody. È nato a Indianapolis nel 1947, ha iniziato alla radio e nelle TV locali dove conduceva le news e le previsioni del tempo. Si è trasferito a Los Angeles nel 77 sperando di diventare sceneggiatore. Si è dato alla stand-up comedy, lo stile tipicamente americano dei monologhi comici di fronte al pubblico. È apparso in show come Mork e Mindy e si è fatto notare come ospite del leggendario Johnny Carson. Please say hello to Johnny Carson. Il David Letterman Show nasce nel 1980 come programma mattutino, dura solo 5 mesi. Il serale inizia nel 1982, 11 anni alla NBC, poi dal 1993 sulla CBS, un'istituzione trasmesso anche in Italia sul satellite in versione sottotitolata. The water cover everything, you remember? It's flood. The flood, yeah. The flood. Right. Thank you very much, Dave. You're welcome, Bob. Thank you very much. Yeah. Sorry, forget the question. What about... Lo humor di David è spesso surreale e assurdo e qui potrebbe essergli più vicino Daniele Luttazzi o Gene Gnocchi. Inizia lo show con un monologo, idea copiata poi da Ezio Greggio in Striscia la Notizia. Ha una band al vivo, quella di Paul Schaefer, che è un po' il Laurenti di Bonolis nel senso della vita. E con il suo Chiambretti Night, da gennaio Piero Chiambretti alzerà il tiro delle sue marchette proprio nella stessa fascia di Letterman. My name is Borat Sagdiev. Mm-hmm. So my hobbies is ping pong. I like to take photograph of ladies while they make a toilet. Yes. Yeah. Eppure negli Stati Uniti non c'è solo Letterman, ma non è un caso che nella nostra televisione, in cui le donne intelligenti non paiono molto gradite, non ci sia un'analoga sfida a diventare Oprah Winfrey. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. La prefettura di Roma ha istituito un tavolo permanente sul maltempo per il nubifragio di stanotte. Strade e gallerie sono allagate, in difficoltà anche la stazione Tiburtina. Una donna è morta, annegata nella sua auto, sommersa da 4 metri d'acqua in un sottopasso a Monte Rotondo, vicino alla capitale. Sorvegliata la foce del Tevere, nelle prossime ore verranno evacuate le case più vicine. Anche in Umbria il Tevere è esondato. Valeria Poggi della Protezione Civile Regionale ci fa il punto della situazione. La situazione più critica sicuramente è lungo l'asta del fiume Tevere e in parte nella zona dell'Orvietano. È stato anche fatto un rilascio controllato, aperta la diga di Corbara, insomma, per un rilascio controllato dell'acqua. Ci sono in azione anche dei geologi che hanno fatto dei sopralluoghi per vedere alcune situazioni di smottamenti che si sono verificati, ma ripeto, tutto il sistema locale di protezione civile è attivato e sta lavorando già da ieri pomeriggio. Acqua alta a Venezia stamattina 1,15 sul medio mare, che vuol dire il 40% della città sott'acqua. Il massimo di 1,30 è previsto tra le 22 e le 23. Siamo pronti al veto sul pacchetto clima, lo ha detto Silvio Berlusconi nel giorno del vertice del Consiglio europeo. Aiuti alle aziende sì, ha aggiunto il Premier, per quanto riguarda la crisi, ma non solo per il settore auto. La Banca Centrale Europea prevede un calo prolungato della domanda globale, vede l'inflazione al ribasso almeno fino a metà del 2009. Intanto la Banca d'Italia ha diffuso il bollettino. Le entrate nei primi 10 mesi dell'anno sono cresciute del 3,2% e il debito è in calo. Con la finanza a breve termine tutti sono in pericolo, lo dice il Papa, secondo il quale la crisi alimentare nasce da speculazioni. Milioni di bambini vengono abortiti, ha aggiunto Benedetto XVI, nel nome della lotta alla povertà. Una nuova vittima sul lavoro all'Ilva di Taranto. Si tratta di un operaio di origine polacca che ha perso la vita nell'area dell'Alto Forno 4 dello stabilimento siderurgico. Lavorava per una ditta esterna di manutenzione e oggi per questa ditta sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro all'Ilva. 5 manager dell'Ilva sono stati denunciati dai carabinieri in un'operazione contro il traffico illecito di rifiuti. Nello stabilimento di Genova sono state sequestrate 100.000 tonnellate di rifiuti speciali, costituiti prevalentemente da polverino d'acciaio, e circa 5.000 tonnellate di pasta di zolfo. Stephen Chu, premio Nobel per la fisica, il futuro segretario per l'energia, scelto dal presidente americano eletto Barack Obama, che ha praticamente completato la sua squadra per l'ambiente. Due storie di cronaca, una arrivata da Genova, una da Taranto, accomunate dal fatto che entrambe hanno a che vedere con l'Ilva. Nello stabilimento di Genova, manager denunciati per un traffico illecito di rifiuti, ce ne parla il nostro corrispondente. Nell'area che un tempo ospitava il parco minerario erano state accumulate almeno 100.000 tonnellate di rifiuti speciali, in particolare polverino d'acciaio e pasta di zolfo, cioè i residui delle lavorazioni dell'alto forno chiuso nel 2005. Secondo i carabinieri del NOE, l'aver custodito per così tanto tempo una quantità di tali proporzioni di materiali di risulta, senza richiedere una serie di specifiche autorizzazioni, ha rappresentato una violazione della legge che dal 2006 prescrive norme precise sullo stoccaggio e sullo smaltimento dei rifiuti speciali. Sul registro degli indagati sono così finiti nomi eccellenti: il presidente del CDA del gruppo Ilva Emilio Riva, il direttore dello stabilimento di Genova Giuseppe Frustaci e i responsabili dello smaltimento dei rifiuti Franco Risso ed Enrico Calderari. Il deposito di rifiuti, situato in un'area attigua all'aeroporto, è stato filmato dall'elicottero nel corso di una serie di ricognizioni. Ora la procura potrebbe disporre una perizia per accertare l'eventuale pericolosità dei rifiuti al momento non catalogati come tali. Nel corso della stessa operazione condotta tra Genova e Pescara, i carabinieri del NOE hanno stroncato un giro di smaltimento di rifiuti che si articolava in varie regioni, emesse 36 denunce e 5 ordinanze di custodia cautelare. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova. E ora all'Ilva, ma questa volta di Taranto, dove c'è stato un incidente mortale. È morto nel suo ultimo giorno di lavoro quando la sua squadra stava ultimando lo smantellamento delle attrezzature al termine della manutenzione programmata. Jan Tuvanovic Vic Montaigne, 54 anni, di origine polacca, è la terza persona deceduta nello stabilimento Ilva di Taranto dall'inizio dell'anno per un incidente sul lavoro. Anche lui lavorava per una ditta esterna all'impianto siderurgico. La ditta, la Pearson Montaggi, che fa parte della Pearson International, stava effettuando la manutenzione dell'altiforno numero 4 fermo dallo scorso mese di luglio. L'uomo è stato colpito dal braccio di una gru ed è precipitato da un'altezza di 15 metri. Soccorso dai compagni di lavoro, è stato trasportato nell'ospedale Santissima Annunziata, dove è deceduto la scorsa notte. La polizia e l'ispettorato del lavoro di Taranto stanno verificando la dinamica dell'incidente. La procura ionica ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, sequestrato l'impianto in cui è avvenuto l'incidente. Giovanni Longo, GR24, il Sole 24 Ore, Bari. Francesca Malaguti da Roma, aggiornamenti sulla situazione del maltempo? Sì, il tabellone della fermata davanti alla prefettura parla chiaro, i tempi di attesa degli autobus sono lunghissimi, si arriva a 22, 23 e anche 30 minuti, e proprio per questo il sindaco Alemanno ha chiesto al prefetto di intervenire e invitare a sospendere lo sciopero dei mezzi previsto per domani. E sono già oltre 300 gli interventi che i vigili del fuoco hanno effettuato a Roma da questa notte, 50 le persone tratte in salvo e, come abbiamo detto, c'è anche una vittima, ma è in corso di evacuazione proprio in questi istanti nella zona di Ponte Mamolo da parte di un elicottero dei vigili del fuoco, un gruppo di una decina di operai che si trovano in un edificio a rischio. E per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Francesca, naturalmente torneremo a collegarci con te per avere ulteriori sviluppi su quanto sta accadendo a causa del maltempo. Ve lo avevamo annunciato poco fa, parliamo delle elezioni abruzzesi. Domenica e lunedì si vota per scegliere il presidente della regione. Si tratta di elezioni anticipate, indette in seguito alle dimissioni del presidente Ottaviano Del Turco, lo ricordiamo, arrestato il 15 luglio scorso per uno scandalo tangenti legato al mondo della sanità. I due principali candidati sono dunque Giovanni Chiodi, indipendente vicino al Popolo delle Libertà, che si è dimesso da sindaco di Teramo, e Carlo Costantini, deputato dell'Italia dei Valori, sostenuto dal Partito Democratico. Sentiamo un ritratto di Giovanni Chiodi. Berlusconi lo ha scelto come candidato alla presidenza della regione Abruzzo non soltanto perché, come ha detto il premier, è un bel ragazzo, ma anche perché Gianni Chiodi non è un politico di professione. È stato eletto sindaco di Teramo nel 2004, l'unico di centrodestra fra i capoluoghi abruzzesi, e il suo consenso è cresciuto nei 4 anni di amministrazione. Ma Chiodi prima d'ora non era mai uscito dalle mura teramane, adesso gli occhi della politica non soltanto locale sono puntati su di lui. Perché se è vero, come hanno detto a destra e a sinistra, che le elezioni abruzzesi sono un test nazionale, anche da Roma ora più che mai guarderanno i risultati elettorali di Gianni Chiodi. Il premier, per sostenere la sua candidatura, è andato addirittura due volte in un mese in Abruzzo. Commercialista, attualmente il candidato favorito alla successione di Del Turco, non è un politico di professione, forse ne è testimone anche l'ultima mossa, da molti definita clientelare, girata sul web qualche tempo fa. Ai giovani chiedeva il curriculum. Dal 22 al 23 novembre vai alla bancarella di Gianni, che sarei io, nella tua città e iscriviti al tuo futuro. Con questo atto non esprimi una preferenza politica, ma stai prenotando un incontro di selezione, di formazione e avviamento al lavoro imprenditoriale. Entro il 31 gennaio del 2009 sarai convocato per la selezione e per il programma di formazione. Stefano Totoro, GR 24, il Sole 24 Ore. E questo era il ritratto dunque di Giovanni Chiodi, candidato indipendente vicino al Popolo delle Libertà. Domani ascolteremo invece il ritratto del candidato appoggiato dalla centrosinistra, Carlo Costantini. E adesso parliamo di cittadini stranieri, perché per la prima volta l'Istat è andato a scoprire qual è la condizione sanitaria dei non italiani che vivono nel nostro paese. I dati presentati oggi, ricavati da un campione di circa 60.000 famiglie, si riferiscono al 2005 e sono gli unici disponibili su questo settore. Il direttore centrale dell'Istat, Linda Laura Sabadini, al microfono di Marco Lignana. Abbiamo una popolazione straniera residente, perché qui non parliamo di quella non residente, che ha dei bisogni di salute molto simili a quelli della popolazione italiana e che ha anche mediamente presenta migliori condizioni di salute. Questo perché abbiamo a che fare con dei migranti, soprattutto di prima generazione, che si spostano prevalentemente per progetti di lavoro oppure anche per ricongiungersi ai propri familiari, e che quindi portano con loro un capitale di salute che fa un gruppo che è più sano di quello che c'è in Italia. Quindi è tutto rose e fiori. Allora, intanto va detto comunque che esistono differenze tra le nazionalità, perché ci sono alcune situazioni di criticità, tra queste in particolare per quella marocchina, che si evidenzia come con problemi di peggiore salute, soprattutto di tipo mentale. In più va aggiunto che ci sono dei problemi da un punto di vista dell'accesso al ricorso dei servizi sanitari, perché complessivamente gli stranieri presentano un minore accesso rispetto a quello degli italiani, sono più contenute le prestazioni sanitarie come visite mediche, accertamenti diagnostici, il tasso di ricovero per esempio è più basso per gli uomini stranieri rispetto a quelli italiani, e se togliamo alle donne straniere i ricoveri per parto, va nell'analoga direzione anche la situazione delle donne nei confronti dei tassi di ricovero delle italiane. Invece è più frequente per esempio il ricorso ai servizi d'emergenza come il pronto soccorso. Cambio della guardia al Torino Film Festival. Al posto di Nanni Moretti è arrivato ieri Gianni Amelio. Simone. Signor Carabinieri, qua. Deve averci mesi, signor Torino. E come da passi a Torino? Boh. Il film con cui ha vinto il Leone d'Oro nel 98, Così ridevano, l'ha girato a Torino e del suo amore per il capoluogo piemontese non ha mai fatto segreto il calabrese Gianni Amelio, da ieri il nuovo direttore del Torino Film Festival. Uno dei miei sogni è stato sempre quello addirittura di trasferirmi a Torino. Amo questa città da tanti punti di vista e mi piacerebbe anche stringere un po' i legami. Il regista dei Ladro di Bambini e l'America succede nella direzione del Torino Film Festival a quello di Eccebombo e Palombella Rossa. Nanni Moretti in due anni ha dato al festival una visibilità mediatica senza precedenti, incrementando il pubblico, gli accrediti, la presenza dei giovani. L'eredità di Moretti è un'eredità solida, seria, allegra anche, come giustamente dice lui, e quindi io mi auguro di tenere tutto ciò che Moretti ha sviluppato in questi due anni e che comunque era già nella tradizione del festival, e di aggiungere anche, se posso, qualcosa di mio. E se Nanni Moretti ha rinunciato la direzione del Torino Film Festival per tornare a dedicarsi alla regia, con Gianni Amelio non ci sarà questo rischio e neanche quello di rinunciare a suoi nuovi film. Sto infatti per girare e riuscirò a conciliare il film che sto per iniziare con il lavoro per il festival. Questo è un fatto che ho calcolato molto bene. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco a Roma, dove la prefettura ha istituito un tavolo permanente per il maltempo. Una donna è morta, annegata nella sua auto, sommersa da 4 metri d'acqua in un sottopasso a Monte Rotondo, vicino alla capitale. Francesca Malaguti ha raccolto le voci di alcuni cittadini. Stanotte è un disastro. l'autobus che ha impiegato molto tempo ad arrivare, e l'autista ha detto che era per problemi di pioggia e di passaggio proprio nelle strade. C'erano allagamenti, va il Muro Torto giù al Flaminio e sulla Tuscolana. Anche il resto d'Italia è colpito dal maltempo, disagi in Puglia e in Sicilia per il forte vento di Scirocco. A Matera, alberi spezzati e danni per il violento dubifragio della notte scorsa. Ancora sospesi i collegamenti per le isole minori nel Golfo di Napoli. Siamo pronti al veto sul pacchetto clima, lo dice il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel giorno del vertice del Consiglio europeo che si aprirà oggi pomeriggio. Aiuti alle aziende sì, aggiunge il Premier parlando della crisi, ma non solo per il settore auto. In calo il debito pubblico, il dato arriva dalla Banca d'Italia nel giorno nel quale viene diffuso anche il bollettino della Banca Centrale Europea. La BCE prevede un calo prolungato della domanda globale e vede l'inflazione al ribasso almeno fino a metà 2009. Con la finanza a breve termine tutti sono in pericolo, lo dice il Papa, secondo il quale la crisi alimentare nasce da speculazioni. Milioni di bambini vengono abortiti, aggiunge Benedetto XVI, nel nome della lotta alla povertà. Una nuova vittima sul lavoro all'Ilva di Taranto. Si tratta di un operaio di origine polacca che ha perso la vita nell'area dell'alto forno 4 dello stabilimento siderurgico. Lavorava per una ditta esterna di manutenzione. E 5 manager dell'Ilva sono stati denunciati dai carabinieri in un'operazione contro il traffico illecito di rifiuti. Nello stabilimento di Genova sono state sequestrate 100.000 tonnellate di rifiuti speciali, costituiti prevalentemente da polverino d'acciaio, e circa 5.000 tonnellate di pasta di zolfo. Ci colleghiamo nuovamente con Roma, Francesca Malaguti. Quali sono gli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione maltempo? C'è una notizia di pochi istanti fa: che rimangono confermati lo sciopero e tutte le mobilitazioni nazionali previste per domani. Si prepara dunque una giornata nera per il traffico, soprattutto se la situazione meteorologica non avrà presto un miglioramento. Intanto poco fa il capo della Protezione Civile Guido Bertolaso ha dichiarato: la situazione è seria ma per ora sotto controllo. Ci preoccupano soprattutto i grandi fiumi del centro Italia come il Tevere, l'Arno e l'Aniene. E proprio il Tevere è straripato fra Terni e Viterbo, e il ponte che divide le due province e anche il Lazio e l'Umbria è stato chiuso in via precauzionale. Per ora da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Francesca Malaguti. Dunque, confermato lo sciopero dei mezzi pubblici anche per domani, tranne, lo ricordiamo, Venezia, i vaporetti andranno regolarmente. L'economia adesso, con la Banca Centrale Europea che nel suo consueto bollettino mensile sprona i governi dei paesi ad applicare al più presto i piani anticrisi. La Banca Centrale Europea è in una posizione di cauto attendismo. Dopo aver ridotto il costo del denaro di 175 punti base in 2 mesi, ha deciso di optare per una pausa, convinta peraltro che non vi è alcun pericolo di deflazione, come invece pensano molti economisti di mercato. La BCE non vuole ridurre il costo del denaro a livelli troppo bassi per evitare di cadere nella trappola della liquidità, una circostanza nella quale la politica monetaria diventa impotente. Al tempo stesso, però, i banchieri centrali sono consapevoli della gravità della situazione economica. Stanno riflettendo quindi ad altre misure per aiutare il mercato interbancario e ridurre i tassi di interesse che sulle maturità più lunghe, da 1 a 3 mesi, continuano ad oscillare sopra il 3% rispetto a un tasso di riferimento del 2,50%. Ciò non vuol dire che nuovi allentamenti monetari nella zona euro siano da escludere, ma solo che la loro tempistica è incerta e che riduzioni aggressive del costo del denaro appaiono oggi improbabili. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E comunque, pur rimanendo sopra il 3%, l'Euribor a 3 mesi continua a scendere. Il tasso su cui si calcolano in genere i mutui a tasso variabile è passato dal 3,38% al 3,33%, dato di oggi. Oggi è un po' la giornata dei bollettini. Oltre a quello della Banca Centrale Europea è stato diffuso quello della Banca d'Italia. In questo caso c'è una notizia confortante. Buone notizie sul fronte del debito pubblico. Dopo il record raggiunto in agosto, secondo la Banca d'Italia, a settembre il debito si è attestato a quota 1.648 miliardi. Insomma, è sceso di 18 miliardi rispetto al mese precedente. Il debito delle amministrazioni pubbliche torna così indietro di 6 mesi, attestandosi quasi esattamente sul livello di marzo 2008. Con il dato di settembre, inoltre, si interrompe una serie di rialzi iniziata da maggio 2008 e che finora non si era interrotta. Da Banca Italia arrivano poi notizie confortanti anche sul fronte entrate tributarie. Nei primi 10 mesi dell'anno si sono attestate a 311 miliardi, il 3,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2007. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Andiamo in Grecia adesso, dove le proteste contro il governo sono diminuite, si registrano situazioni di tensioni solo ad Atene e Salonicco. In particolare ci sono stati incidenti davanti a un carcere di massima sicurezza alla periferia della capitale. Ci colleghiamo allora con Vittorio Darold. Vittorio, cosa sta succedendo? Sì, in effetti ci sono stati degli scontri davanti al carcere di Korydallos, che è ad est della capitale, un carcere appunto di massima sicurezza dove sono stati rinchiusi alcuni dei manifestanti che avevano appunto nelle 5 notti precedenti fatto dei raids nel centro della città, praticamente devastando 200 negozi e colpendo anche numerosissime agenzie bancarie e anche di turismo. Una situazione quindi molto critica, ma che sta diminuendo. La tensione comunque resta alta. Il premier Costa Karamanlis ha deciso comunque di andare al vertice dei 27 sul clima a Bruxelles, e il vero problema è che la disoccupazione giovanile, cioè quella che colpisce dai 15 ai 24 anni, è la più alta d'Europa, quindi si parla anche sui giornali di oggi di una fine di un'era e di una rivolta generazionale che sembra non sia solo appannaggio della Grecia, ma in generale della zona di Eurolandia. Da Atene è tutto, a voi studio. Grazie Vittorio Darold, citava appunto il premier greco che è andato al vertice sul clima, vertice di cui parleremo fra pochissimo, dopo le 13.45, perché ci sono novità anche per quanto riguarda il fronte italiano, con il veto che intende porre l'Italia, secondo quanto ha detto Silvio Berlusconi, per il famoso limite del 20 per quanto riguarda le emissioni inquinanti. E a proposito di clima, l'aumento delle temperature nel vecchio continente in Europa mette a rischio le farfalle. La farfalla gialla su di un altro fiore si posò. Le prime a scomparire sono state le lucciole. Più di recente ci si è preoccupati per la moria delle api. Ora l'allarme riguarda le farfalle europee. Per colpa dei cambiamenti climatici potrebbero infatti non trovare più un habitat ospitale in grado di accoglierle. E le farfalle, come le api, si occupano dell'impollinazione cui è affidata la sopravvivenza delle piante. Per gli esperti del Climatic Atlas of European Butterflies, l'atlante della futura distribuzione geografica delle farfalle europee, la colpa del fenomeno è da attribuire all'aumento della temperatura che altera il ciclo riproduttivo di questi insetti. Per trovare un po' di refrigerio, le nostre farfalle saranno costrette a spingersi sempre più a nord, senza però trovare una casa accogliente dove mettersi a riparo, in fuga da un'Europa centrale e del sud sempre più calde. Si parla di un aumento medio della temperatura di 4 gradi entro il 2080. Migrazioni verso nord, che tra l'altro saranno sempre più indicative del destino non soltanto delle farfalle, ma di almeno 2/3 delle specie animali. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 ore. GR Extra Large, queste sono le notizie della giornata. C'è una vittima per il maltempo a Roma, una donna è morta annegata nella sua auto, sommersa da 4 metri d'acqua in un sottopasso a Monterotondo, vicino alla capitale. Per il nubifragio di stanotte, come avete sentito in che strada fa, strade e gallerie sono allagate, in difficoltà anche la stazione Tiburtina, sorvegliata la foce del Tevere. In Toscana l'Arno ha superato il primo livello di guardia, ma sono delle piene controllate, spiega Pietro Bortone, dirigente della Protezione Civile di Firenze. Stanotte la difesa del suolo della provincia ci ha avvisato e ha mandato segnalazioni che avrebbero aperto la diga di Levane per regimentare un po' le acque, che da 300 metri cubi al secondo sono passate a 940, quindi il fiume sta ricevendo questa piena, ma è del tutto sotto controllo, cioè non è una piena, diciamo, del fiume, e sono le dighe che si stanno regimentando. Siamo pronti al veto sul pacchetto clima, lo dice Silvio Berlusconi nel giorno del vertice del Consiglio europeo. Aiuti alle aziende, sì, aggiunge il premier parlando della crisi, ma non solo per il settore auto. In calo il debito pubblico, il dato arriva dalla Banca d'Italia nel giorno nel quale viene anche diffuso il bollettino della Banca Centrale Europea. La BCE prevede un calo prolungato della domanda globale e vede l'inflazione al ribasso almeno fino alla metà del 2009. Con la finanza a breve termine tutti sono in pericolo, le parole sono del Papa, secondo il quale la crisi alimentare è nata da speculazioni. Milioni di bambini vengono abortiti, aggiunge Benedetto XVI nel nome della lotta alla povertà. Una nuova vittima sul lavoro all'Ilva di Taranto. Si tratta di un operaio di origine polacca che ha perso la vita nell'area dell'altoforno 4 dello stabilimento siderurgico. E 5 manager dell'Ilva sono stati denunciati dai carabinieri in un'operazione contro il traffico illecito di rifiuti. Nello stabilimento di Genova sequestrate 100.000 tonnellate di rifiuti speciali costituiti prevalentemente da polverino d'acciaio e 5.000 tonnellate di pasta di zolfo. Ci colleghiamo nuovamente con Roma, con Francesca Malaguti. No, scusate, non siamo in grado di collegarci in questo momento, invece siamo in grado di collegarci con Bruxelles, dove oggi c'è questo famosissimo, ormai diventato, Consiglio europeo sulla questione clima. Sì, si parla di clima e non solo di quello. Italia è ancora molto scettica sull'accordo, tanto che poco fa ha parlato il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, come avete sentito nei titoli. Enrico Brivio, scusa la battuta, che clima si respira? È un clima ancora difficile, insomma, ci sono ancora delle nubi che dovranno essere diradate, nel senso che si apre un vertice, come avete ricordato, piuttosto difficile sul pacchetto clima, che dovrà disciplinare la strategia ambientale dell'Europa nel post Kyoto, e in particolare un nodo importante è quello della distribuzione tra i vari settori industriali dello sforzo per ridurre le emissioni di anidride carbonica, e di uno sforzo che potrebbe essere molto oneroso per le aziende italiane. Per questo il Premier Berlusconi in apertura nel pre-vertice ha ricordato che l'Italia è pronta a porre il veto, ma ci sono anche le richieste della Germania, della Polonia, dei paesi dell'est, quindi non sarà facile quadrare il cerchio per la presidenza francese di Nicolas Sarkozy. C'è poi in discussione anche il piano di rilancio dell'economia da 200 miliardi, anche qui ci sono da vincere le resistenze tedesche ad aprire i cordoni della borsa, mentre si va delineando una tabella di marcia, una roadmap per la ratifica del Trattato di Lisbona, con l'impegno irlandese a tenere un altro referendum nel corso dell'anno prossimo. Ecco Enrico, si parla addirittura di un vertice ad oltranza, perché appunto i temi sono tanti e i nodi da sciogliere appunto sono quelli che ci dicevi. Sì, c'è la possibilità che il vertice si prolunghi nella serata di domani, eventualmente anche continui sabato, insomma che sia una di queste famose maratone negoziali che a volte possono succedere, soprattutto quando sono in gioco degli interessi economici contrastanti di tutti i paesi, e quindi è un'ipotesi da non escludere. Grazie Enrico Brivio in collegamento da Bruxelles, torneremo nel corso della giornata a collegarci con te per sentire come stanno andando effettivamente i lavori. Continuiamo a parlare di crisi, Alessandra. Eh sì, continuiamo a parlare di crisi perché pare che gli spagnoli vogliano comprare, almeno per le festività di Natale, solo quello che è prodotto nel loro paese. Almeno questo sembra essere un invito che è stato rivolto. Giulia Crivelli, una notizia pubblicata oggi da El País. Sì, buongiorno. Sul sito di El País, cioè elpais.es, c'è un po' di spazio per questa notizia, che naturalmente è una buttade, però è anche una notizia perché sono parole del ministro del turismo, Miguel Sebastián. Che invita ad avere una Navidades alla Española, cioè avere un Natale molto spagnolo. Questo significa di non comprare champagne, dice El País, per esempio champagne francese naturalmente, non comprare caviale che venga dall'Iran piuttosto che dalla Russia, e invece comprare tutto quello che è spagnolo e fare le vacanze in Spagna. Questo potrebbe dare grandissimo, grandissimo impulso all'economia, secondo il responsabile del commercio e del turismo. Addirittura lui la valuta, questa spinta dovuta ai consumi alla Española, in 4,5 miliardi di euro, se appunto tutti gli spagnoli seguiranno il suo consiglio. Parliamo anche di una svendita, però, e ci spostiamo oltre Manica. Bretagna, grandi difficoltà del retail, che poi naturalmente non sono soltanto della Gran Bretagna, qui però è un colosso, Woolworth, che chiunque abbia frequentato magari anche tanti anni fa la Gran Bretagna lo ricorda, era un po' come dire la standa da noi tanti anni fa, quindi era un negozio di fascia media, diciamo, dove i prezzi erano molto modici, non ha saputo rinnovarsi, sono molti anni che è in difficoltà, adesso addirittura il marchio era stato messo all'asta per una sterlina, nessuno si è fatto avanti, ora i negozi sono tantissimi sparsi per la Gran Bretagna, insegna Woolworth dove si vende un po' di tutto, dalle caramelle alle ciabatte alle lenzuola, sono in svendita, quelle svendite da fuori tutto perché chiudiamo, e se entro Natale non si fa avanti un altro compratore, l'amministratore delegato ha avvertito i 25.000 dipendenti, questo per darvi l'idea della grandezza della catena, che molti negozi potrebbero già chiudere per sempre. Quindi anche qua una sorta di invito stile quello spagnolo, cioè comprate qua perché sennò 25.000 se ne andranno a casa. Sì, l'ultima notizia, invece ci spostiamo in Francia, dove c'è questa polemica un po', e non è nuova del resto. Sappiamo che la ministra Rachida Dati, la ministra della giustizia, che ha fatto notizia anche perché è incinta e non vuole dire chi è il padre, è in così un po' alle strette con Sarkozy, non da ieri. Potrebbe effettivamente, si dice per esempio Liberation, potrebbe effettivamente il suo mandato, si potrebbe andare verso un rimpasto, quindi lei potrebbe essere sostituita, e questo poiché la stessa sorte potrebbe toccare al ministro per i diritti umani Rama Yada, anche lei è una donna, anche lei di origine non francese, di origine nordafricana, e quindi potrebbe essere un colpo alla diversità del governo in due sensi: mancherebbero le due donne più particolari e che appunto avevano anche un'origine non strettamente francese. Quindi Giulia, tutto questo clima, il primo prefetto nero nella storia di Francia, la prima Miss Francia di colore, insomma rischia di saltare un pochino tutto a fronte di queste cose. Sì, purtroppo insomma sono, ma probabilmente, forse addirittura se vogliamo è quasi un passo avanti, no? Non sono degli intoccabili solo perché sono appunto di colore piuttosto che di origine non francese. Se fanno degli errori vengono trattati come qualsiasi altro ministro. Cerchiamo di vederla comunque in positivo. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiremo con te naturalmente domani per parlare sempre dei quotidiani stranieri in edicola. Ora invece siamo in grado di collegarci con Roma. Con Francesca Maraguti. Sì, Francesca, allora, situazione, aggiornamenti, che cosa sta succedendo? E continuano i disagi al centro e anche nella periferia cittadina. In corso anche ora alcuni interventi dei vigili del fuoco per trarre in salvo persone intrappolate in zone a rischio, come 10 operai nel quartiere Ponte Mamolo. La situazione si preannuncia critica anche per domani, dato che è stato confermato poco fa lo sciopero generale e le mobilitazioni in programma. Lo ricordiamo, c'è stata anche una vittima a Ponte Rotondo, in provincia di Roma, una donna annegata nella sua auto sommersa dall'acqua. Il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ha convocato per oggi alle 15 il comitato operativo della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza. E da Roma è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Francesca Malaguti. Intanto c'è un'ultima ora che riguarda l'Iraq, l'ultima ora riguarda il bilancio di un attentato che è avvenuto oggi in un ristorante di Kirkuk nel nord del paese. Almeno 45 morti, oltre 70 i feriti, almeno questo è quanto riferisce l'agenzia irachena IRA. E arrivano anche altre notizie, questa volta dall'Europa. 14 presunti affiliati alla rete terroristica Al-Qaeda sono stati arrestati oggi a Bruxelles. Uno di questi sarebbe stato sul punto di compiere un attentato suicida. La notizia degli arresti è giunta, mentre, lo sapete, a Bruxelles stanno arrivando i capi di Stato e di governo europei per il vertice. In questo caso invece la notizia è stata diffusa ieri dalla custodia francescana di Terra Santa sul lago di Tiberiade in Galilea. È stata fatta una scoperta eccezionale. Un gruppo di archeologi di Gerusalemme ha trovato oggetti per il trucco femminile da ampolle di vetro intatte contenenti unguenti e profumi, probabilmente gli stessi usati da Maria Maddalena per ungere i piedi di Gesù. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, si racconta di quando Gesù venne invitato a mangiare da un fariseo di nome Simone. Ed ecco una donna, si legge, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, fermatasi dietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. La notizia, riferita dal sito terrasanta.net, è che quell'unguento prezioso è stato ritrovato. Beh, forse non proprio quello con cui la donna che la tradizione successiva riconobbe in Maria Maddalena o Maria di Magdala unsì i piedi di Cristo, ma almeno un suo parente stretto sì. Nel sito archeologico della città di Magdala, sulla riva occidentale del lago di Galilea, dove da diversi anni sono impegnati gli archeologi dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, sono stati infatti scoperte preziose ampolle in terracotta in vetro finissimo, contenenti cosmetici e unguenti. Si trovavano in una piscina destinata alle donne, risalente al primo secolo d.C., coperte da uno strato di fango che ha preservato il contenuto delle ampolle nei secoli. Ora le analisi chimiche di un'università italiana dovranno confermare che si tratta di balsami e profumi. Poi, una volta scoperta la formula, l'olio profumato di Maddalena e Gesù potrebbe essere riprodotto e persino commercializzato. Magari senza mescolare troppo il sacro con il profano. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Un diluvio a Roma nel caos, una donna morta nella sua auto sommersa dall'acqua, disagio in tutta Italia. Clima, siamo pronti al veto, dice Silvio Berlusconi nel giorno del Consiglio europeo. Terzo incidente del 2008, un operaio muore all'Ilva di Taranto. E sempre all'Ilva, ma di Genova, indagine su 5 dirigenti per un traffico di rifiuti illeciti. Cala il debito, dice Banca Italia, dalla BCE preoccupazione di incertezza sulla situazione economica. Irresponsabile, così Veltroni replica a Berlusconi dopo la chiusura del Premier sulle riforme. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, con in regia Fabio Cantadori e al coordinamento Maria Piera Ceci. Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Noi torniamo domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.